Attenzione, Gurgugnau. Che cosa stanno a dire? Salve Giulio. Sto scaldando la pappa. Pirata. Pirata dei Caraibi. L'hai sentito Giulio? Eia, chi c'è là? Quanti sono? C'è anche Bonponi o no? Ciao Antonese, sei qua. Ciao Marco, salutoni, l'hai sentito? Io purtroppo per fare una prova, ho portato il cavo in camera di mamma del BMR, diciamo, e mi tocca riportare il cavo qua. Volevo fare una derivazione, comprare l'H155, no? E fare una derivazione con uno spinotto a barilotto. Posso collegarla o qui nel salone o in camera di mamma per fare eventuali prove, prove di copertura. Ma ci stai dicendo a me o a Giulio? Ma mi sentite? Mi accoppiate? Pronto? Se non arrivi tu. Ehi, a Giulio, anche a te. No, che devo riportare il cavo qui, capito? Sono in antenino in PMR, non sento nessuno, solo Claudio sento, e Antonello. Ma tu se mi senti bene, sì? Marco, ma non lo senti a Marco? No, Giulio, sono con un antenino interno, perché ho tolto il cavo che arrivava dall'antenna, l'ho spostato in camera di mamma per una prova. No, sento solo quelli locali. Nemmeno te sento, mi se ti fidi. Prova a parlare. Mi la mando in diretta, ma non arriva nulla. No, se stai parlando, Giulio, qua non arriva nulla, eh? Sì, stavo parlando più a me. Stavo dicendo che non si sente poco lui, capito? Sono anche qua io, però c'ho il baracchino piccolino, non so se mi sentite. Piccolino è, ti vegani cieco. Piccolino è questo, allora, questo è il Milan con l'MB più 5, cambio. Il Milan con la Juventus. Allora, ma come il visino va a giro berretto della Juventus, cioè se si confonde. Perché non te lo fai la cover del baracchino? Non te la fai a strisce rosso-nere, Claudio? Non mi impicco prima, ma c'è come la Ponte Rosello, rosso-nere, pucci. O peggio, rosso-blu. Rosso-blu, la sorella di Antonello ce li ha. Senti, Antonello, a me che sono bianco-nero mi puoi far diventare rosso-blu, cazzo, dentro di Giovanna guai. Io già sono monocolore, a me dal calcio soldi in tasca non me ne entrano e quindi del calcio. Ciao Franco, ben sentito. Ciao Marco, va bene, mi senti? Sì, qua sì, per forza. Ma poi non fa ad avere antenne sul tetto di quel tipo qua, no? Troppi metri di cavo, capito? Troppa perdita. Anche qua deve farlo bene, fra, tu mi senti, basso di segnale sicuramente. Sì, sei più basso di segnale, ma ti sento bene. Radio 5, perfetta. No, la radio già è buona, però il segnale, questo c'ha 4 watt, capito? Già va bene per modulare così a fare due chiacchiere. Ottimo per la truppa, l'antenna è quella piccolina, quindi già va bene. Capo, 6-7 di segnale, 6-7. Più alto di Marco. Addirittura, più alto di Marco. Vabbè, siamo di fronte però, più aperto. Di là dall'altra parte arrivi a Manettone. Vabbè, perché io ho cambiato il motore, gli ho truccato la testata. Da Manettone arrivi, tutti forti arrivati, tutti forte. Capo. Non c'è niente di... Non perdi niente, Marco, se metti l'antenna su, un'antenna e poi ci metti il cavo, anche se ne metti 20-30 metri, non perdi niente. No, qua sono 50 metri e ci vorrebbe l'H1000 come minimo su quelle frequenze. non fa nemmeno, non è proponibile, dai. 50 metri. Siete un piano. Piano rialzato, più ci sono altri tre piani, più il terrazzo. Dovrebbe andare, a posto di spendere Camille, è ovvio che spendi un cifrone. No, e se usi il 58 in UHF 50 metri non arriva segnale, nessuno, non scende, non sale il segnale. No, dà una perdita eccezionale a quelle frequenze, quelle sono frequenze molto delicate, molto delicate, quindi non vale la candela. Va bene, dai, riprendete che sta cuocendo la roba qua, dai. Tanto sono imbriagatemi, ma sono giù, a me intendete. Ehi, a guida, se ti intendo. Anche troppo. Va benissimo qua, non ci sono problemi. Alla grande. Anche tu sei cucinato, Marco, caspita, tutti così rendi stasera, babbo. Ma tu ti vedi che non mangiava, vedi? Io ho fatto male da poco fa, dunque, ho già mangiato. Adesso se ne fanno più tardi, alle 8:30. No, io già ho finito, stavo preparando un sugo d'arrabbiata. Stavo tagliando la salsiccia, capito? Già ho finito. No, questo, questo è quello grande 220, perché è l'unica radio che posso usare a 220 qua, capito? È il DAC con l'MB più 5, però ce l'ho a potenza bassa. 8 watt da questo, non è là di più una M. Sì, ma già va bene, va benissimo, io la voglio. È una radio che esce bene. Ma anche se metto quello, l'altro che ho, il baracchino, il Nissan, quello, la base, quello lì c'ha 4 watt, mi sembra lo stesso. E se lo metto, come ti esce bene lo stesso, non come questo di segnale, ma nel radio esce bene lo stesso, praticamente le MV5. Sì, ti avevo già sentito una volta, esce benissimo. No, per non avere alimentatori, cose, capito? C'è l'antenna attaccata, quell'altra che avevo è le MV5. Quando sono qua uso questo, non ho portato altre radio. E poi c'ho un 820H, V1 e basta. E gli altri ce li ho tutte dall'altra parte. Riprendi Antonè, fammi sentire la radio. Hai detto uno, hai due, non sei contato. No, ne è una solo di bottiglia. Hai detto uno, fammi sentire uno e le cagiture della Candria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi un po' così mi stanno girando le domande, adesso va bene. Guarda un po', adesso è 87. Perfetto, Antonè, va bene, per fare due chiacchiere ti ascolto benissimo. Sei 9 più 30, alla grande. Ma qua Marco stava dicendo, con la RG 58 non esce il PMR, ha detto che non esce. Io lo stavo usando prima di mettere la Camille, eppure usciva bene. Fra, però io ti sentivo lo stesso, ma non col segnale che ti sento adesso, ha ragione Marco. Prima arrivavi 5-6, 5-7, avanti era fondoscala, è chiaro che un cavo di quelle dimensioni, di quella perdita come la RG 58 in UHF, che è già una frequenza particolare, abbastanza tosta, ci vuole un cavo buono per poter avere ricezione e trasmissione, se non senti poco e trasmetti male, hai capito? Quindi è così, se è chiaro, c'hai 5 metri di RG 58 su un UHF, riesci così a farti sentire, ma se ne hai 40 metri non c'hai niente, Fra, capito? Troppa perdita, è un cavo per giocare i bambini, non va bene. No, io mi riferivo nel fatto che io lo usavo, quindi non basta. Vabbè, adesso ho capito. Niente, Giulio! Ok, è per certo, con un cavo come la RG 58 c'è molta perdita, indubbiamente. Poi più lungo è ancora peggio. Sì. È normalissimo. Vabbè, grazie, ho chiuso dall'altra. a parte, non ha voluto attaccare il 27, forse non aveva voglia di piazzare, perché lui smonta sempre e rimonta quando vuole parlare il 27. Mentre invece il PMR ce l'ha sempre portata in mano, e allora è per quello che parla frequentemente lì. Vediamo se c'è Marino, perché poc'anzi Marino era PMR, ci avrà sentito sicuramente, c'era l'ascolto, vediamo se parte il 27. Marino, ci sei? Marino non c'è. E Bacchisio, ci sei? Vabbè, non lo so. Pazienza, non ci posso fare niente. Antonello, riprendi, sei rientrato? Sì, sono qua, non c'è problema. Antonè, a proposito di bottiglie. Dimmi tutto. Ma quella sera, io quando ho pagato anche la bottiglia che hai preso quando sono arrivato, mi spero che non te l'abbiano fatto pagare tutte a te. No, non ho fatto pagare niente. Capito? Me l'ha detto, l'ha pagato tutto Marco, mi ha detto. E tu la ce l'ha pagare. E mi ha detto, no, l'ha pagato tutto Marco, mi ha detto. Allora si è sbagliata. Io in realtà avevo pagato la bottiglia di birra di quando sono arrivato io, ma non quella precedente. Ci sono fregati da soli. Meno così, allora si è sbagliata. Ma perché? Che cazzo mi sta chiamando? Aspetta. Io adesso ho scaldato troppo la roba e stava bollendo, devo aspettare pure che raffreddi, te ne immagini. Comunque Fra, sì, per esempio io qua, per arrivare al divano, no, alla parte destra, ho messo 10 metri di H155, no? Quello sottile, è come 58 ma ho molta meno perdita. Se io andassi oltre i 10-15 metri, cioè, in poche parole, l'RG58 in UHF può andare bene per 10-15 metri, ma fai anche 20 massimo, però dopo da troppa perdita di segnale, ma stiamo parlando di decine di dBm a 50 metri di lunghezza come sarei io. Sì, me la sei dato Claudio. No, io pensavo che poteva andare perché io l'ho usato prima di mettere questo cavo qua. Infatti avevo intenzione di cambiarlo, di metterlo questo alla Mantova e quello della Mantova, il 213, metterlo a questa qua, alla VEU. E, però, visto così, c'è un po' di perdita, quello là, e lo lascio stare. Eia. Ma tu poi come antenna cosa avevi adottato? Che non ti eri trovato bene con la Sirio 440, no? Avevi cambiato antenna? Sì, no, veramente ce l'avevo già, prima della Sirio. Poi avevo preso la X200, quella bianca, l'avevo presa. In effetti è quella. Eia, quella è bella lunga, è importante che risuoni, sai perché. Se si trovassero le versioni americane di quelle antenne amatoriali Diamond sarebbe meglio, e sai perché? Perché di solito sono tarate 430, 440, no? Bene o male il centrobando è a metà, dipende poi dall'installazione. Quelle americane fanno 430, 450 e il centro banda ce l'hanno i 440, cioè gli americani hanno la UHF più 10 MHz più estesa, capito? 430, 450 e il centro banda è 440, sarebbe ideale per l'EPD e PMR quel centro banda, capito? Purtroppo non si trovano, importarle pagheresti più di dogana che altro, non vale la candela, dai. Ecco, quello già è vero. No, io quella lì, la 44, l'ho messa da parte, l'ho messa dentro la busta, l'ho lasciata, l'ho provata solo e basta. Ho visto che non mi piaceva e allora l'ho messa da parte. Devo avere posto molto lontano dalla Mantova oppure da un'altra antenna della TV, perché se no mi fa di... Non oscura troppo la chiusura, anche se è un po' lontano. Ma c'è questa, ce l'ho più vicino all'antenna e non gli fa niente. Ehi, collega, poi adesso rilancio altri. Comunque, da prove fatte da me in macchina, no? Io andando già dalla Littoranea, vedi, sulla 131 ancora prendevo, come andavo sulla Littoranea e andavo verso Sorso, no? Tutta la Littoranea, dalla rotonda verso Sorso, io perdevo tutti i segnali PMR, tutti, tutti. E non mi sentiva nessuno, anche se chiamavo, anche se li sentivo proprio a zero, non mi sentiva nessuno. È come se fosse una zona d'ombra, mi, forse anche per quello un'antenna poco performante rende poco. Quella che avevo messo io era buona, era la un'antenna Diamond da un metro, esattamente la NR770. Te l'ho detto, lì zona Platamona dintorni, Sorso, perdevo proprio, mi abbatteva i segnali, forse perché c'è qualche collinetta, boh. Ma lei ci sente, 200 o 500, come ha detto poc'anzi, cos'era? Non è 430, 440, Marco? Io non so che è 144 quella. No, bibanda, UHF, UHF, cioè 144, 146, 430, 440, sono sempre dual band quelle, la X30, la 50, la 200, la 210, la 500, sono tutte dual band. Ah, ho capito, sì, sì, va bene, va bene, quella è lunga anche, quanto è lunga quella, la fa? 5 metri, c'è, cioè, di lunghezza? Quale? La bianca che hai detto poc'anzi, quella lunga. No, 5 metri, no, sarà 2 metri più o meno, 2 metri di lunghezza in tutto. Ma la corta tu c'hai, la lunga ce l'ho io, 5,70 m. Sì, tu hai la 510, è la lunga. No, io ho la 200, la 200 è un paio di metri mi sembra, adesso non mi ricordo. Non ci arriva neanche a 2 metri, ma ancora c'ho io quella grande. Tutte V e U sono, Giulio, tutte, dalla più piccola, dalla X30 fino alla X7000, che è la più grande di tutti, capito? Che è la più grande di tutti, perché oltre alla 510 c'è una ancora più grande, e sono tutte bibanda. Ah, ho capito, no, io pensavo che sì, magari, che ci fosse, questo vabbè, non lo mettevo in dubbio, però pensavo che era solo 144 quella che aveva comprato Franco, invece no, mi state confermando che fa V e U, è meglio così, sono ultime, così sono ultime veramente, così almeno uno può lavorare sia in 2 metri che in 70 centimetri. Va benissimo. Avanti Marco. K, mi adesso metto la roba nei piatti e mangiamo, dai, serve anche ora. Cosa volevo dire? Fra stazionarie le misurate in PMR, per curiosità. Sì, vero. Cioè, non le ho stazionarie, c'ho sempre un risorometro attaccato, niente, come qua, in questa antenna che sto usando adesso, della 27, e là è lo stesso, niente stazionarie. C'è da dire una cosa però, Giulio, Franco e Marco lo sai, che queste antenne che usiamo noi radioamatori, quindi dalla X30 sino alla 7000, hanno la banda praticamente secca, cosa vuol dire? 144, 146, 430, 440. Essendo a 446, quindi un po' più alto, c'è una minima perdita e fra, capito, non è molto centrato il segnale, nel senso che se è a 440 uno arriva 9 più 20, a 446 arriva 9,10, capito? C'è una perdita di segnale perché l'antenna sta lavorando fuori banda, capito? Quello me l'avevano già spiegato, quello che mi stai dicendo tu, già è così, me l'avevano già spiegato un'altra persona, e lavorava così, lavorava. Posso? No, io, sai, leggendo sui vari forum, su Roger K, io avevo sentito che chi aveva provato a usare in frequenze PMR antenne collineari come le Diamond, soprattutto quelle, non la X30, ancora di banda abbastanza bocca buona, X5A, ma quando cominci ad andare sulle 200, sulle 510, sono talmente strette di banda che hanno avuto molte stazionarie in PMR, tipo 3 e forse anche di più. E stranamente Franco invece non ne ha stazionarie, probabilmente l'installazione, per come è installata, risuona meglio lì, capito? E mi pare di ricordare quello che più è collineare, cioè più guadagno ha sulla banda amatoriale, più è stretta di banda. Claudio, non so se ti risulta, ma anche dalla curva del ROS, negli schemi che ti mette la Diamond, è così. Dai, vi devo lasciare, metto la roba nei piatti, vai Claudio. Sì, Borsella, è così, non si discute. La matematica è quella. Io lo stesso, ho uno rapporto a uno proprio appena appena, a 446 con la 510, però essendo alta, essendo aperta eccetera, e col cavo che ho, io quella bassa perdita lo stesso, grosso, cioè, tutti le ispezioni che vanno, poi c'è il commutatore elettronico, quindi a me mi scende un unico cavo e faccio tutto, capito? Perché il commutatore che ho io è praticamente HF, VHF, VHF. Quindi i cavi sono attaccati su, scendo un unico cavo, quindi è una perdita molto molto bassa. Però stazionaria non ne ho neanche io. O meno, o per meglio dire, il rapporto 1-1 in PMR, mentre il rapporto 1-0 praticamente manco si muove, in VLU normale, quindi su banda centrata amatoriale. Vai Giulio, riprendi. Sì. Sì, beh, in effetti dovrebbe essere così, perché c'è da considerare questo, che ogni antenna ha la sua portata, cioè la sua potenza in uscita, no? Sicché salendo di potenza salgono anche delle stazionali, e questo mi sembra abbastanza normale, anche se poi rimangono nella norma. Volevo chiedere, Claudio, quella cosa, un commutatore elettronico che hai, ma si può mettere anche da 27 volendo, tutto in un unico, o solo per il VLU quello funziona, per la 27 no? Allora, quello che io è della Meritron, che costa una barca di soldi, io l'ho preso, me l'ha passato la verità a me, Elio, perché lui si è preso quello a 8 vie, io ho quello a 5 vie. Perché c'ho quello a 5 vie? Perché praticamente c'è l'antenna, ci sono direttive collegate, quindi la direttiva che è 3 bande, fa 10, 15 e 20, e c'è un cavo solo attaccato, ok? E faccio praticamente 3 bande. L'altra è quella dei 6 metri e c'è attaccata quella dei 6 metri e va bene, è già occupato 2 vie. Nell'altra che c'è l'antenna appunto B-banda, l'ho messa su un'altra via, quindi mi occupo 4 vie. La quinta via la occupo per quella della 27, capito? Perché è dai 10, quindi fa 10, quindi 10, 15, 20, 40 e 80 come HF, ok? E in più poi ci metti anche le V e le U, perciò si può fare, però non conviene avere un commutatore così elettronico a relè sul tetto, commutato da giù elettronicamente, se hai un'antenna sola. Quello va bene per gli animatori quando hanno tante antenne, per avere un unico cavo di discesa come c'ho io. Ho capito, sì, ho capito, vabbè. Ho capito, sono apparecchiature straordinarie quelle, indubbiamente. Ma sto strappando per caso? Io sto strappando per caso? No, da me no. No, negativo. Claudio, ti provo una cosa. Allora, io ho questa antenna che l'ho comprato nuova, 50 cm lunga, non è questo granché. È una Sirio, la CX440. E qua c'è scritto solo che va in UHF, va. E lei da 4,40 fino a 4,55 MHz. In pratica risuona solo nella banda PMR. Diciamo quella potresti provarla in macchina, perché sai, le antenne veicolari così da macchina, io ho provato a fare 1000 esperimenti, metterla anche sul tetto con un barilotto momentaneamente, scendere giù e fare la prova, ma non ha la ricezione che hanno le antenne, capito? Mentre in macchina, quelle lavorando al centro tetto, lavora molto bene. Sì, è una monobanda da 4,40 a 4,50, 50, anche 4,60 adesso va bene quella, capito? Sono talate, va bene quella per il PMR, però usarla a casa non va bene, quella va bene in macchina. No, aspetta Claudio, questa è la base per casa, non è per macchina. Cassata per il tubo, tutto quanto. Questa è stata posta per QTH. Ah, ho capito qual è. Quella va benissimo. Caspita, quella è specifica per il PMR. Quella va bene, risuona benissimo col PMR. Lei mette un tubo, il cavo, già ti ho visto, sei molto vicino alle antenne, tu quindi hai bassa perdita. E la provi, fai la differenza col commutatore, oppure stacchi una, attacchi l'altra e vedi qual è che risuona meglio. Fra, quella va benissimo, certo che va bene. Capo, perché siccome io l'ho provata, è la prima volta che l'ho piazzata sotto l'antenna della 27, però mi dava fastidio, mi dava sia la 27 e sia la televisione. Poi l'ho piazzata da sola, dove c'ho l'antenna adesso, l'altra antenna adesso, e mi fa sempre fastidio ai televisori, mi dà fastidio. È per quello che io non l'ho più fatta, capito? È nuova, nuova questa, l'ho solo provata. Sono le antenne UHF caricate, sono fra. Sono quelle a bobina, già ho capito, di quelle disturbano. Quelle disturbano, fra. Ti conviene lasciare quella che hai. Quella va bene magari in campagna, come sono io, la metti su un palo e funziona divinamente, capito? Ma così a fianco ad altre antenne disturba, ho capito qual è. Ma adesso chissà che vai, che sono ottime. Vanno benissimo, se sono tarate bene, che non hai stazionarie, hai una perdita di pochi dB di segnale a ricezione, ma vai divinamente, no? Non te ne fotte nulla. Avanti Giulio. Ok, sì, è certo. Anche perché quelle antenne sono tutte 5 ottavi, sono, non è così. Bene, perché le antenne di Hammond 5 ottavi sono di coso, di potenza. Sì, sì. Quali? Quali? Aspetta, ho perso il filo. Le Diamond non sono 5 ottavi? Dipende dalla frequenza. Poi sono multipli di 5 ottavi, per esempio l'X30 è 2 per 5 ottavi, è come avere 2 5 ottavi singole, capito? Poi c'è la X50, 3 per 5 ottavi, l'X200, già ho perso il conto, sarà 4 per 5 ottavi. È così a seguire, cioè sono proprio multipli della 5 ottavi, quindi hanno una resa, parecchi dB di resa, no? In VHF potrebbe essere, vanno dal quarto d'onda alla mezz'onda, per esempio l'X30 mi pare sia mezz'onda già, l'X30 in VHF è mezz'onda, e così a salire, poi anche lì sono multipli di, comincia a diventare 5 ottavi e multipli, adesso non ho le tabelle, comunque belle bestie le Diamond, guarda. Io quella che ho per la macchina, Diamond, lungo un metro, è un bijou, non ha stazionarie, c'è una resa discreta, poi funziona indipendentemente dalla massa o no. Cioè che faccia massa sulla carrozzeria o togliendogli proprio la massa dalla carrozzeria funziona allo stesso modo, non cambia la ricezione, non cambia le stazionarie, infatti non ho capito mica come funzionano quelle antenne. Guarda, specificatamente non te lo so dire neanche io, però so che sono appunto come hai detto tu. Allora benissimo, io questa è la terza che ho perché non la tengo molto, come vedo che già inizia a cambiare colore, nel senso che quando la compri è bella bianca bianca, poi con l'andare del tempo, dopo 2-3 anni il sole inizia già a scolorirla, la scendo e la conservo perché funziona, ne ho due, funzionano perfettamente, però la metto nuova. Adesso questa è la prossima che cambio, questa primavera quando abbasso il sistema, tolgo la 510 e ce ne metto la 7000, la X7000, l'ho comprata proprio l'anno scorso, 2 anni fa, però quando abbiamo messo appunto le antenne, le direttive, c'era già quella lì in punta e Fabrizio ha lasciato quella e abbiamo montato le altre antenne, capito? Se no l'avrei cambiata. Però quest'anno che devo abbassare il sistema, che devo fare un po' di manutenzione, ci metto la 7000, tolgo la 510 la porto in campagna e la 7000 la piatto, la metto nuova sul sistema, che è molto più performante, più resistente, anche se è più alta, però ha un maggior guadagno. Vai Fra. Ehi capo, dimmi una cosa Fra, la 510 fa lo stesso lavoro, lavora nello stesso modo della X200, così è. Sono tre elementi però, capito? All'interno delle antenne c'è sempre lo stesso stubbi in rame, uguale per tutti, però nella 300 ce n'è uno singolo, capito? Un pezzo unico che copre, all'interno sono due pezzi, V e U, uno più lungo e uno più corto, mentre sulla 510 sono tre pezzi. Cazzo. Perché la sto guardando e non costa neanche molto, costa 121 euro. Sì, a me me l'aveva comprata all'altra di continente, ne aveva portato 3 o 4, ci avevamo divisi e le aveva pagate 100 euro. 100 euro l'una le avevano fatta lui, ma ne aveva preso 4 o 5, adesso non mi ricordo. Però sono ottime, la Diamond è Diamond. E poi si mettono a fare altri tipi di antenne, la Midland è quello, la Fayette di Ubico. Sono tutte stronzate perché le ghiere sono in plastica, di chiusura, anche se le vulcanizzi con l'andare del tempo si spaccano e ti si riempie l'antenna d'acqua, mentre le ghiere della Diamond sono in ferro cromato, buono, acciaioso, quasi acciaioso, dove li puoi stringere anche perché c'è la chiave in dotazione, e una volta che tu vulcanizzi è eterna. Io ne avevo smontato l'ucula seconda che avevo smontato, ho tolto il vulcanizzante e praticamente le ghiere erano lucide, le ho smontate a mano. Se tu vai a comprare un'antenna di quelle con le ghiere in plastica, ti rimane in mano il pezzo, non serve assolutamente a niente, perché tu chiedi a Vannino, ne aveva preso una diversa e si è riempita d'acqua. Capa, sì, lo so, una volta, tanti anni fa, me ne aveva dato una Vannino di quelle antenne lì, me ne aveva dato, mi sembra che era 510, era in tre pezzi, e poi alla fine mi si è riempita d'acqua perché probabilmente fatta che era vecchia, tutto quanto. Poi l'ho smontata quella lì, avevo preso la X200, mi avevo preso. Sì, sono in metallo quelli lì, anche se hanno una piccola guarnizioncina, mi sembra. Però il vocalizzante glielo metto sempre perché per sicuro. Ci vuole per forza, ci vuole in punta il vulcanizzante anche se c'è il tappo, e ci vuole nei raccordi, nelle ghiere, ok? A prescindere che c'hanno un OR, nello stub c'hanno un OR, poi strigi ed è abbastanza ermetica, però ci va sempre il vulcanizzante per ogni evenienza, capito Fra? No, quelle vanine le avevamo prese ad Olbia ad una fiera e ti dico che ci hanno durato da Olbia a Sassari, per farti capire. In una settimana sono riempite tutte e due d'acqua. La mia era all'ultimo piano, allora la giovata Vurami, ma dice ancora appiccata all'ebolo di Rubino. Capito? E non ci ho comprato, non ne ho più comprato di antenne non Diamond, assolutamente, solo Diamond. Le antenne vogliono buone, che siano direttive, non direttive, verticali, da macchina, vogliono buone, perché altrimenti non servono a niente. Vai Giulio. Ok, io ne ho una che è lunga circa un metro e venti, non di più, grossa quasi come un bastone di scopa, e alta 1,20 m, se mi ricordo che si chiama, perché ce l'ho come 7-8 anni con l'antenna, forse anche 10, si chiama X30 se ricordo bene, è nato lì per il ricevitore, per ascoltare la UR 2000, e dunque e prende dappertutto, anche la radio privata, proprio bene, ma molto bene, devo dire. E lei con una ventina di metri di campo, l'RG 58 di quello scadentissimo, anzi addirittura, perché era un pezzo di campo che avevo almeno 30 anni, forse 35, non lo so di preciso, sul ricevitore va benissimo. Quasi cambio cavo e la provo anche nel portatilino PMR e vediamo un po' come funziona. Mi ricordo che funzionato benissimo quando usavamo noi l'LPD qua, allora in quel periodo mi ricordo avevo provato un paio di volte e andava benissimo, andava in LPD, ma dovrebbe andare bene anche in UHF, cioè con TMR in 446. A proposito Marco, se tu che sei aggiornato in queste cose, anche quella è 5 ottavi, dai CC30, 3 radialinea. Sì, quella è 2 per 5 ottavi. Ce l'ho io la C30 qua, c'è la radialinea, messi in giù. Sì, 2 per 5 ottavi anche quella. Non della ricezione, domani adesso la controllo, forse magari il PL è dopo l'altro. Vediamo un po'. Perché è una cosa un bestia. Invece la X30 ancora funziona benissimo. Ce l'ho qua. Antonio, stai uscendo. Ah, contate una cosa, queste antenne con lineari Diamond, soprattutto. Non lo so le X30, ma quelle, vabbè, hanno anche dei componenti interni, hanno dei piccoli condensatori, non so se resistenze, comunque condensatori ne hanno, quindi lavorano in un certo modo, credo che siano anche strette, tra virgolette, di banda per evitare i disturbi dalle radio FM, dalle TV, capito? Cioè non è solo alluminio nudo, come può essere un'antenna di baracchino, no? Un pezzo di alluminio. Sono dei componenti interni che certe volte se ti finisce un fulmine non troppo lontano si possono bruciare o con l'elettricità statica non sono protette, una cosa del genere. Certo che all'interno c'hanno dei condensatori, non voglia, più di una volta partono quelli se non rispetti la potenza, perché mi pare che abbiano non più di 150 watt le puoi dare a quelle antenne. Non più di 150 watt, infatti chi ha l'amplificatore in V&U, io ad esempio ho l'amplificatore sino a 250 watt in V&U, anzi 200 watt in V e 400 in banda laterale, quindi quando uso il 275H in banda laterale uso la direttiva, ho le due direttive sia V che U che tengono 500 watt, capito? Perché quelle antenne se le dai più di 150 watt e parte questo condensatore ti manca la ricezione, non senti più niente. Mi pare che l'avessi sentito questo da Gianfranco, che o per un fulmine o qualcosa si erano dovuto cambiare quei condensatorini all'interno dell'antenna, e quindi sulle antenne lavorano in un certo modo, sai, e ripeto, molti hanno avuto problemi in quella banda lì perché in base all'installazione avevano stazionari alte o poi sempre trascurabili. Ve ne dico una, ve l'ho già detto. Allora, uno ha, avete presente i portatili di varie marche, che sia Yaesu, che sia Baofeng, Voxun, Icom, no? Uno ha preso un analizzatore d'antenna tipo Ridia Expert, prodotto elettronico, nuovo display digitale, ha collegato le antenne e ha verificato le stazionarie sulle varie frequenze amatoriali e non solo. Beh, queste antenne c'erano tutte minimo 3 di stazionarie, anche 5 di stazionarie, certe andavano anche oltre. Cioè i portatili devono avere risumo finali robusti, perché col portatile, sai, gli avvicini anche l'antenna al viso quando parli, quindi ne risentirà parecchio il funzionamento dell'antenna, eppure non si bruciano i portatili. Quindi anche quando uno c'ha magari anche due di stazionari che si preoccupa, no, con antenne esterne, veicolari, non c'è da preoccuparci più di tanto per un portatile che ha pochi watt. Certo, se è un veicolare, lì cominciano a soffrire nei finali, ma registrano cose impossibili questi portatili. Poi sai, Baofeng, 30 euro, si rompe, lo butti, ne compri un altro, lo sa di una butti. Ma non è così, si brucia anche quello, perché se qualsiasi radio lavora con un stazionario, nel reggente si bruciano i finali, non è così, l'antenna deve essere performante, deve essere a posto, deve essere tutto in ordine. Vai Giulio, riprendi. Ok, intanto vi saluto a Marco che ha dovuto chiudere urgentemente perché è la gente a casa. Salutoni a tutti e due, anzi a tutti e tre, compreso me. Sì, evidentemente quei condensatori di cui stai parlando, oh Marco, saranno magari dei filtri per il rientro delle stazionarie, probabilmente servono per quello, perché se ci sono magari più del solito le stazionarie, giustamente come sta dicendo Claudio, si dovrebbero bruciare i finali, perché la prassi è quella, cioè la tecnica dell'elettronica è quella. Per cui evidentemente questi condensatori, essendo un'antenna a più frequenze, costruita per più frequenze, evidentemente sono dei condensatori che di rientro, cioè di salvaguardare il rientro delle eventuali stazionarie. Io penso che sia così, Marco. Io aspetta che abbasso. Io pensavo di più a qualcosa tipo qualche filtro passabanda, tipo per eliminare i disturbi delle radio FM che sono potenti, no? La radio, la banda 8808. Addirittura potrebbero essere anche filtri a banda stretta in modo da escludere la banda televisiva che può recare disturbi comunque e escludere anche la banda FM delle radio FM, in modo che l'antenna funzioni solo in un certo range, capito? Riceva anche solo all'interno di un certo range. Teoria mia, però bisogna chiedere a chi le conosce a menadito proprio. No, ma c'è anche, se tu sbagli la potenza, ti si interrompe l'antenna, capito? Quindi mi pare che all'interno sia anche una resistenza, qualcosa del genere. L'ho vista aperta, però non è che mi sono preoccupato più di tanto. Ho visto che ci sono dei componenti attaccati, soprattutto nello stubico del rame, capito lì? E bisogna stare attenti appunto quando li innesti, quando devi friggere bene, con la sua chiavettina, devi andare fino a fondo, perfetto, perché molti non lo piazzano bene. Quello deve giuntare uno con l'altro, tutte e tre, se sono tre, se sono due, devono giuntare uno con l'altro, se no ti creano problemi. Però penso che sia proprio una sorta di taratura di antenna, di protezione dell'antenna, una cosa del genere, non mi ricordo, ne avevo sentito parlare, ma sinceramente non mi sono mai preoccupato di cosa possa fare. Mi hanno detto sempre non superare i 150 watt e basta, infatti io non li ho mai superati, perché tutte le radio che ho io base sono da 100 watt, in antenna ne possono arrivare 80, però quando uso l'amplificatore in U e in U uso sempre le direttive, sia quella V che quella U, perché ne ho anche una polarizzazione verticale che è puntata verso la parte di Oristano, capito? La lascio sempre lì ferma. Io le antenne veicolari, che poi io in realtà le antenne veicolari le ho prese per lo scanner, no, per ascoltare proprio le bande amatoriali, quindi non mi interessava nemmeno le stazionarie. Poi vabbè, facendo prove ho visto che sono usabilissime, al di là dell'aspetto legale potremmo dire, no? Risuonano. Io comunque Diamond ne ho solo una, tutte le altre sono o copie Diamond, roba Oxin, robacce del genere, se non peggio, tutte cinesi sono, tranne una. E chissà perché mi fido più della Diamond originale. Ma è normale che ti fidi, perché quella è la migliore, alta fedeltà, cioè dà delle ottime soddisfazioni. Ti ripeto, io le cambio quando vedo che stanno già iniziando a scolorirsi, le tolgo, ma ne ho due che sono perfette. Se mi devo informare se posso dare una vernice normale, bianca, o se devo darle qualche vernice particolare. Dopodiché le tengo di scorta, ma sicuramente le monto in campagna. Tutto lì, però sono ottime come antenne. Guarda, io ho la 510, ho la 300, ho anche la X50. E ti posso dire che sì, i segnali variano, perché variano, sono in diverse posizioni, però quella che bassa bassa, che c'ho proprio attaccata sotto il palo della direttiva, che mi serve proprio per ascoltare, e ricevo tutto, forse l'antenna, l'altezza, non l'antenna, l'altezza che mi salva, però è così. Adesso quelle, quando io le monto in campagna, che non hanno più l'altezza che praticamente avevano prima, però è una buona posizione e dovrebbero funzionare bene lo stesso. si vedrà, si vedrà. Raga, io ve ne posso salutare però, perché sta arrivando gente e mi voglio far trovare pronto. E poi devo andare a mangiare il cane e mollarlo un attimino, così non si bagna che non sta piovendo più. Ok? Ci sentiamo, grazie alle due chiacchiere, grazie a tutti. Ciao Franco, se sei ancora all'ascolto, Marco, Giulio, chiunque fosse su 10. Ci sentiamo domani se coincide. Ciao a todos. Stasera c'è l'Inter. Hai compreso che se ne viene in Noga? C'è a caso il mio Juventino a vedere l'Inter. Ma cosa mi ha fatto a me? A volte il culo, tutti in gola. Ecco, c'è anche in famiglia io. Mia genero è Teresa, si può immaginare, per cui. Ma non ne parliamo mai di calcio. Veramente, proprio così. Anche perché se ne parliamo è di risotto, perché si sa, è sempre un pandemico. Va bene, ciao cara, grazie per la chiacchierata anche a te, dai, ci sentiamo le prossime, domani sicuramente ci coincide. Avanti Marco. Eia, ciao Claudio, ci sentiamo alle prossime, anche domani, presumo che entrerò, tanto se andiamo da Osciano andiamo presto. Eia. Vediamo se è rimasto Antonello anche. Ehi, sono qua, ciao, qua, ci sentiamo. Buon coletti, buona ce l'ho buttato. Alle prossime. Avanti, Marco. Ciao Antonello, perdonami che avevo perso l'orientamento. Ciao, un abbraccio, ci sentiamo domani, ciao a tutti. Non ti preoccupare. A te Claudio. Avanti, Giulio. Aspetta, aspetta, Claudio, dimmi su che canale è la partita. No, è su Sky, capito. E di Sabaidani, l'Inter quando gioca sul primo. A voi, quando su Sky, ve ne ho gattiato con quell'anno. Ma vatti con tutto pure. Già uno è entrato, su che dico rimani, e non ha detto nulla. Ma vi dimoracro che parcheggendi. Ma Sky, quale canale è di sport? Sky Sport Serie A. Ah, ok. No, perché per vedere se c'è su quello streaming, Giulio, quello streaming che mi avevi segnalato, l'ho scaricato TV Tap, però mancano molti canali, purtroppo non è come volevo io. Io ero convinto di trovare Netflix pure, manco per idea. Ok, sì, su TV Tap. Non ci sono problemi, ma non solo, non possono, in tanti posti, c'è ad esempio su Arena 1 oppure può essere Arena 2, tutte le stazioni di sport, oppure può essere Sport 2, Sport 1, Sport 2, queste, oppure su Sky può essere, certo, ci sono, Marco, non ci sono dubbi, anzi io mi sono anche attrezzato, io lo guardo nel tablet, lo guardo. Per le partite mi sono attrezzato e ho anche attrezzo il cavo adatto giusto per vederlo nel televisore, anche da 44 pollici come io in sala qua, per cui va bene così. Sì, Marco, non ci sono problemi, guarda, cercalo. All'inizio praticamente tu da quella cosa lì vedi subito canale 20 ad esempio, ma non è che riprendere quel canale, fai scorrere la pagina e trovi Arena 1, Arena 2, Arena 3, prova su Arena, io molto spesso guardo partite su Arena, poi c'è Arena 4 anche, su proprio quelli, no? E vedrai che in uno di quelli lo trovi, anche se il commento magari non è proprio in italiano, mentre invece se tu poi lo fai arrivare in fondo e vai trovi le stazioni Sky, allora lì è italiano, tranquillo, partite, come ci sono problemi. Comunque sei riuscito a trovare il sito delle partite, Marco, indipendentemente dal fatto che magari più o in un canale o nell'altro, sei riuscito a trovarli? Dunque, io ho scaricato l'applicazione, però non ho lo smartphone al momento, è nell'altra stanza. Poi controllo, no? La curiosità di trovare, di vedere se... Tanto poi non ne seguo calcio, ma a sapere se... Io avrei voluto Netflix, ma da serie TV moderne, no, però non c'è. Quella è una cosa molto delicata. Poi mancava il 22, Iris, anche in chiaro, Iris non c'era, non so perché, proprio quello mancava, è una una cosa così comune, boh. Ma forse perché ha lo smartphone, ma il tablet non ce l'hai, perché se lo guardi dal tablet è ancora più apprezzabile, si vede anche di più tutte le stazioni che ci sono. Sì, sì, io ho messo l'applicazione, non sono andato sul sito, proprio dall'applicazione ho usato. Poi vabbè, alla fine non la sto usando molto, mi giusto per prova, l'ho segnalata anche a un'altra persona. Ma vabbè, vedo se la tengo, dai. Tanto certe volte vai su Sky Cinema, no? E ti danno tutti i film vecchi, cioè film che danno anche la TV in chiaro, allora è inutile, finché una cosa nuova, posso capire, ma molti film sono vecchi, non danno solo film nuovi. Sì, beh certo, quello sì, sì, ma quello è vero, ma comunque io non controllo, le guardo sempre col tablet, no? Io ho un tablet di 30 cm di larghezza, oltre un palmo della mano, alto saranno 15 cm, 30 per 15 più o meno, là. Più o meno, forse anche 20, quindi forse 20 anche per 30. E lo vado lì, poi adesso per il Natale mi hanno regalato, mia figlia mi ha regalato il cavetto e dunque posso vederle nella televisione a schermo intero, proprio con tutta la grandezza della televisione, a secondo dei pollici della televisione. Io solitamente lo guardo nel salone perché io ho la televisione da 44 pollici, poi ne ho uno qui davanti dove sono io adesso, in questo momento questo è 24 e allora lo posso vedere anche lì, per cui va benissimo, a parte le altre televisioni che ho anche, no? Perché noi ne abbiamo 5 qui installati in televisione, per cui ti puoi immaginare che avendo la casa a più di grilli, chiaramente in ogni zona c'è voluto un televisore. Beh, dice, però inizialmente riprendevo un tablet e devo dire che si vede anche molto bene nel tablet, per la verità le apprezzavo, mi sedevo nel divano e me li guardavo nel tablet inizialmente, poi invece per il Natale mi è stato regalato appunto questo cavetto con una piastrina tutta in bacchelita, all'interno naturalmente c'è un circuito sicuramente, e si attacca il cavo, si attacca dell'alimentazione con il cavo netto USB, e devo dire che si vede molto bene, come vedevo in chiaro quando trasmettono veramente in diretta le partite sulla televisione, proprio un'ultima scoperta, Omar. Sì, io mi sono accorto. Sì, è, diciamo, una qualità standard, non è HD o Full HD, perché per come sono pignolo io, poi con lo smartphone, quello c'è uno schermo, mi pare Full HD Plus, e lì le partite le vedo come nella TV normale, proprio, non so quale sia la definizione normale del Palcolor, cosa abbiamo? 500 e fruscia linee di definizione, insomma, vabbè, io speravo fossero banchine HD o Full HD magari, sarebbe stato il top, ma se è gratis mi accontento, dai. Beh, certo, devi accontentare, ovvio. Sì, sì, no, ma io quel sito l'ho dato anche a Roberto, dunque anche lui si sintonizza e vede anche lui, non ci sono problemi, mi ha confermato che ha trovato le partite tranquillamente, ma c'è di tutto, non solamente il calcio, c'è il pugilato, il ciclismo, il tennis, qualsiasi sport, il ciclocross, tutto, motocross, automobilismo, tutti gli sport del mondo. E poi vedi anche partite straniere, non solamente quelle italiane, puoi vedere partite da qualsiasi parte del mondo, puoi vedere, per cui non ci sono problemi. E anche le reti straniere trasmettono le partite italiane, ecco per quello che ti stavo dicendo, che magari ti parla uno, della due, oppure altri sport 1, sport 2, queste sport cose così, no? Questi siti così. non trasmettono in italiano, trasmettono magari quello trasmette in portoghese, quell'altro trasmette in spagnolo, così via, no? Quell'altro trasmette in tedesco. E dunque anche loro, da qualsiasi parte del mondo, puoi vedere la partita giocata in Italia, tra squadre italiane, e magari col commento in appunto in lingua straniera. Però se vai su Sky, lì c'è la partita trasmessa in italiano, come solitamente si fa tutte le partite in Sky, dai. Eia, è carino comunque come applicazione, è carina perché puoi vedere anche i canali normali, no? L'Italia 1, la Rai credo, cioè le Mediaset, le Rai, tutti i canali, che ne so, Focus, insomma è come avere un televisorino, capito? Se sei in macchina, se sei, che ne so, dovunque sia, volendo ti puoi guardare il telegiornale, le cose normali, no? Adesso aspetta che mi tocco le palle. Ti ricordi che quando si andava negli ospedali bisognava portare il televisore con quelle antenine portatili, no? Insomma, invece con lo smartphone fai tutto, ti puoi vedere, mi sto ancora toccando comunque, perché io già ne ho passata una brutta l'anno scorso. Spero non serva mai per quello scopo. Capito, insomma lo smartphone fa anche da televisore, per le reti TV è eccezionale, come fa tutto, cos'è che non fa? Il caffè non lo fa ancora. Sì, ma è così, infatti è così, ci sono tutti quanti, c'è tutto Sky, tutto Rai, tutto Mediaset, tutti questi canali ci sono, tutti indistintamente, non è manca uno, guarda, io li ho controllati tutti, li ho fatti girare uno a uno, li ho fatti girare, ci sono tutti. Poi ci sono canali russi, canali francesi, canali tedeschi, canali dappertutto, non ce ne sono problemi. Il problema è la lingua, quando ti sintonizzi in un canale è quello, se non conosci la lingua è chiaro, guarda, sì, il film lo puoi vedere lo stesso, la partita la puoi vedere lo stesso, però bello anche capire il commento, no? La partita vabbè, non mi interessa il commento, la guardo e basta, anche se la sto guardando in un canale straniero che trasmette col commento straniero, per cui, ma se devo vedere un film, una cosa del genere, quello che c'è di diverso è che leggermente, ma leggermente a livello di un minuto e mezzo, in ritardo rispetto alla televisione, anzi no, nemmeno un minuto e mezzo, anche di meno. Cioè tu per dire vuoi sintonizzare Rai 1, tanto per fare un esempio, nel tablet oppure nel smartphone la vedi la trasmissione dopo che è stata già trasmessa in televisione, ma a distanza di secondi, non è che per dire, no, non so, di preciso non posso dire, ma suppongo comunque meno di un minuto, ma il problema è quello, non si discute, non è a dire che è stato registrato qui, ma no, è proprio quello in diretta che stanno trasmettendo in quel momento in televisione, lì arriva, cioè il cosiddetto effetto della velocità di trasmissione. Mi sono tirato, Marco. Sì. Io per esempio avevo messo il TG5, no? Ho voluto senza cronometrare, no? Iniziato il TG5, avevo già l'applicazione aperta. Ecco, dall'inizio alla TV Tap voglio vedere quanto passa. Era passato in quel caso, probabilmente anche variabile, è variabile la cosa, circa un minuto, poco meno di un minuto. Poi naturalmente il bello è che puoi fare pausa, cioè se va a rilento la connessione puoi fare pausa, fargli caricare un po' di dati, no? C'è quella lineetta bianca che si carica, adesso non so se il colore sia bianco, vabbè, fai caricare un po' di dati, no? Per fare un po' di quello che si chiama il buffer e poi di nuovo fai play e riprendi a vedere. È carino, caspita, io mi ricordo che tanti anni fa, stiamo parlando di 20 anni fa, quando andavo a pesca, quando andavo di notte soprattutto, di sera, no? Avevo questo televisorino a cristalli liquidi, no? Da pochi pollici, no? Con l'antennino proprio da taschino, tascabile. Quello già lo usavo poco, però poi come è passato il digitale terrestre non è servito più a niente, perché era sulle vecchie frequenze analogiche, non è servito più a niente. Ce l'ho in casa ma buttato, non è utilizzabile, capito? E per fortuna lo smartphone può utilizzare questa applicazione e fare anche quello, fare anche da TV. E caspita, io te l'ho detto quando ero alle medie, no, non potevo nemmeno immaginarmi le cose del genere, capito? Sì, e beh certo, e beh, è normale, quando uno, soprattutto allora, si era giovani, eccetera, eccetera, e uno non poteva, certo, quando a quell'età, vabbè, agli elementari, insomma, quando ero agli elementari io pensavo che ci fossero gli uomini che parlavano dentro la radio, li puoi immaginare, cioè, dici, no? Perché mi sembrava strano che una voce così potesse arrivare da lontano, eppure era così, senza sapere cosa era appunto la radio allora. Tu sentivi queste persone che parlavano e hai detto, ma cosa ci sono? Gli uomini dentro la radio, gli uomini di cui dentro la radio. Per dire, no? Vabbè, queste sono cose che non si potevano capire a quell'età. Sì, ma è così, io Marco, ripeto, puoi vedere qualsiasi trasmissione televisiva, anche straniera, no? Sia di diretta che di TV nazionali, no, non ce ne sono di cose. Io perlomeno nel tablet che ho io lo guardo lì sempre e vedo tutto, anche il CB Talk, anche quello lì, lo stesso io lo guardo dal tablet, nel telefono ce l'avevo l'applicazione, ma me la sono tolta per non consumare troppo spesso la batteria, se no magari mi tocca cambiare la batteria in breve tempo, perché quello non è che ha una lunga autonomia, mentre invece nel tablet dura almeno 3-4 volte più di quanto mi dura il telefono, si può immaginare, ma e va bene così, e poi si vede anche molto meglio, si vede tutto quanto, perché è grande il tablet, dunque è praticamente un piccolo televisore, per cui c'è molta più soddisfazione. Poi leggi tutto, ad esempio nel telefonino non vedi le fotografie abbinate al nominativo di quelli che ci hanno fatto l'applicazione, perlomeno nel mio telefonino non si vedono, mentre invece quando attacco il tablet vedo anche le fotografie delle persone che stanno usando quell'applicazione CBTalk o Marco. Cioè col tablet vedi le foto, col telefonino non te le fa vedere? È strano. E con lo smartphone a me le fa vedere. Naturalmente chi mette la foto, io non ho messo foto per esempio. Tanto guarda, l'hanno detto anche per WhatsApp, anche preferibilmente è meglio non mettere foto personali sul profilo. Meno foto personali si mettono dovunque in rete, meglio è, anche se detto tra noi Giulio, Antonè, adesso ti rilancio, ci sei? Ci sono, tu metti una foto di quella della nonna, ci metti, invece sei maschio, vedi, era tamburello, capito, c'è la voce della nonna e ci ha messo la foto da maschio. Io sto ridendo Giulio perché stavo pensando tutti i maniaci fuori di testa che ci sono, no, in rete, no? Sai, sulle chat normali, quelle chat diciamo che usano anche il video, no? Che puoi attivare la fotocamera, no? Io entravo su queste chat, per esempio col nome Tatina 13, no? Tatina 13, no? Simulare una ragazzina di 13 anni, e questi mi dicevano di attivare la webcam e li vedevi subito già col pisello fuori. Ma questi sono scemi, ma non pensano nemmeno che può essere una persona della polizia postale che simula di essere una ragazzina per incastrarli. C'è gente fuori di testa, e purtroppo internet la maggior parte è tutta così, tutta gente col pisello in mano. Un giorno o l'altro ci vado anche Pomponi, amico. Sicuro. pisello. Sono un po' curate, da non lo so io. Ma guarda, Marco, io l'altro giorno, diciamo una decina di giorni fa, stavo leggendo che anche mettendo la foto su WhatsApp potrebbe essere rischioso. In che senso? Supponiamo caso, tu a me mi conosci, io conosco la testa mia, metti la foto tua o la foto mia, la potrei prendere tu per dire, a un certo momento tu non fai altro che appropriarsene della mia foto e fare le rischiose magari comunque con i miei familiari, o addirittura delle cose sì, non solamente le rischiose, ma delle cose tipo che so io, o cercare di sottrarre soldi a qualcuno con la scusa che perché tu fai la notifica, no, su WhatsApp, scrivi per dire sono Giulio eccetera eccetera, ho bisogno di 100 euro, tanto per fare un esempio, mandameli in fretta perché ho problemi in questo momento, per dire tu allora stai essendo parente eccetera, vedi che la mia foto mi conosci, sai, e allora mi spedisci i soldi. Mentre invece è gente che si è appropriata della mia fotografia per dire ha fatto questo messaggio dandoti l'indirizzo dove spedire i soldi. Mi sono chiamato Marco. Sì, sì. Guarda, sì, sì, sì. Mi è sembrato di sentire anche Stefano, sbaglio. Stefano, tu eri? No, ho sentito una battuta di qualcuno. Si è affacciato qualcuno, chi vuole entrare avanti? Nessuno, vabbè. Ehi, poi detto tra noi Giulio, di solito i cellulari, no, per bloccare la schermata, no, ci avevano già il PIN, no, tu metti il PIN e nessuno tranne te, se lo smarrisci, può accedere alle cose, no? Che bisogno c'era di fare l'impronta digitale, il riconoscimento col volto, no? Tu alzi lo smartphone, riconosce i tratti somatici e si accende lo schermo. Fra un po' faranno anche il riconoscimento dell'iride, quindi qualcuno dice anche con questa storia Huawei, spionaggio, no? Che tutti questi dati, cioè la tua immagine, no? Con lo sblocco col volto, la tua impronta digitale, fra un po' anche l'iride, l'immagine dell'iride, finiscano in mani governative, che ne sai se sotto l'NSA, la CIA, che ne so, ma l'NSA più che altro, oppure altre agenzie governative non riescono a carpire tutti questi dati, cioè di te hanno tutto, una volta che hanno la foto, l'impronta digitale, fra un po' lo faranno con l'iride, scansione dell'iride, secondo me anche fra 10 o 20 anni lo faranno anche il riconoscimento del DNA, ci hanno tutto di te, l'immagine, l'impronta digitale, il DNA, non scappi, poi con questo GPS che si attiva a richiesta dalle applicazioni, sanno dove sei, no, in che punto sei, sanno cosa stai guardando al computer, chi sei, che tutto sanno, è una cosa stile Grande Fratello, non è vero, una cosa molto orwelliana. Sì, oggi con GPS sanno anche quando uno va in bagno, se per quello, noi magari non lo sappiamo, però siamo controllati tutti indistintamente, dal più grande al più piccolo, dalla persona più importante al barbone, per dire, tutti siamo controllati, non so, per quello che bisogna stare molto attenti a non mettere niente su Facebook, fotografie, queste cose qua, non si sa mai, perché ti puoi ritrovare quel volto senza aver fatto niente, perché è la causa di qualche delinquente che sta a fare bene il lavoro al computer e ti può coinvolgere utilizzando il tuo o il mio nome o il nome di un altro. Ecco il discorso, ma è così, lo sappiamo, certo. Ma purtroppo c'è gente che ancora queste cose non le ha capite e allora si fia troppo, addirittura tu immaginati quelle ragazze che si mettono le fotografie, che si sfogliano addirittura, ma quando mai? Prendiamo Siamo con Cesare Battisti, quello che hanno appena arrestato in Italia, che era sempre in Brasile, quello era controllato tramite il computer. Vedevano tutti i suoi movimenti, vedevano le autorità, tutto, dove si trovava, dove andava, dove mangiava, dove dormiva, quanti passi metteva tutti i giorni, e tutte queste cose. Alla fine sono andati in poliziotti direttamente ad arrestare. Perché sapevano quali erano le sue vere abitudini, ma anche se si spostava anche da una città all'altra, doveva essere sempre sotto controllo, per cui vedi bene che non sfugge più nessuno, ormai è così. Allora, Antonè, è che tu sei così mio, ricercato? Ehi, è per tributo, l'ho chiamato, quel tipo di cosa. Allora, anche io sono ricercato, ma come su Facebook c'era Biglia in culo, WhatsApp altrettanto, più che fotoporno mi mandavano, cazzo. E qui ho rivelato tutto, a parte c'ho i bambini qui, capito, c'ho i miei nipoti che prendono il telefonino, lo usano per i videogiochi e non vorrei magari che giocando guardino queste cose qui e poi faccio figure di merda pura, solo l'altro. Antonè, dimmi tutto. Vabbè, tu mi pare che hai disinstallato WhatsApp, però tu potevi bloccare il singolo utente. Se Roberto ti mandava quella roba lì, tu potevi bloccare solo lui. Lui non ti poteva più inviare niente. Perché è già utile ogni tanto mandare qualche link, che ne so, una radio, una foto, una radio nuova, capito? Forse non sapevi che c'era quell'opzione. No, sapevo no, a parte il telefonino mio è che lo conosco, quindi figurati tu, l'unica cosa è su Facebook lo guardo qualche volta e basta, guardo cosa non c'è, come sono tanti che scrivono e non c'ho manco Messenger, ho tolto anche quello addirittura, figurati tu. Ehi, guarda che come tra WhatsApp, no, quell'altro, Facebook, tra una persona che è la tua vicina, no, lì, con cui siamo riappacificati, no, da Facebook gli mandano tante di quelle zozzerie, sempre donne nude, cose, adesso non scendiamo in particolari, ma WhatsApp altrettanto. E lì devi stare a cancellare, capito? A niente, guardare e cancellare, perché sennò ti riempiono il computer di porcherie. Poi davvero, magari lo piglia un tuo figlio, un tuo nipote, e ci fai la figura tu di maniaco, mi puoi. Capito? E appunto per quello, siccome prendevo il telefono di Simona parecchie volte, anche il mio, sarebbe pure una peste, capito? Si prende il telefonino e se lo gioca come vuole, capito? E qui non vorrei che andassi dove c'è scritto galleria, guarda questa immagine, addirittura mi hanno mandato questo video dove c'è uno che taglia la persona, prima gli taglia un braccio, poi gli taglia l'altro braccio, dopo l'altro braccio dove ci passano prima la gamba, poi l'altra, alla fine gli taglia il collo, poi l'altra. Sembrava di essere in macelleria tagliando le gambe del pollo, cazzo. Mamma mia, magari era un video di narcotube, per carità. Io guarda, ne ho visto solo uno, mi hanno segnalato, guarda lì, non me l'ha detto manco. E mi stavo sentendo male, non avevo mai visto una cosa del genere, proprio. Decapitare un uomo dal vivo con un coltello, ma una cosa veramente aberrante. Non ne ho mai più guardato, ma mi ha preso male proprio, Giulio. Internet, praticamente mia zia, no, che è anziana, dà la colpa a internet. Infatti internet è un mezzo. Prima le persone si tormentavano via telefono, gli si mandavano le lettere minatorie tramite le poste, no? Seppure, ma non puoi demonizzare le poste perché tramite quelle mandano lettere minatorie o il telefono tramite il quale ti tormentano, ti fanno telefonate uscendo. Internet è solo il mezzo. quelli che ci sguazzano in mezzo sono persone e purtroppo internet oggi sempre quella rappresentata dalle persone è uno schifo perché rispecchia le persone, capito? Sì, beh certo, ma purtroppo è così, però diciamo che è una grandissima comodità, non ci sono dubbi, solo che la gente dovrebbe utilizzare internet e anche WhatsApp e tutto quanto queste cose, insomma il telefonino in genere, il computer in genere dovrebbe utilizzarlo con un certo criterio, non si può mettere in mano ad esempio a certi bambini che magari non sanno nemmeno quello che stanno facendo e allora mettono le pasticci anche i genitori, oltre al fatto che sono loro le pasticci, purtroppo succede così. A proposito, stasera sul 14 stavo parlando con Leoncino, per almeno tre quarti d'ora, un'ora ho parlato con Leoncino, eravamo sempre sul 14 del CB-Talk, ma sul canalizzato e sul CH. Stavamo appunto aspettando che entrassi tu, infatti ti abbiamo richiamato, ma tu non c'eri, tu a quell'ora forse stavi dormendo, stasera intorno alle... Era alle 5, no, forse anche alle 5 e mezza. Dormendo, magari. È arrivato mio nipote stamattina alle 11 e mezzo a pranzo, sono venuti tutti e due qui, ho dovuto fare il pranzo io, poi stavano sempre girando da parte all'altra, intanto pigliavo il telefonino, ho voluto ricorrere a loro, poi addirittura si è... due pestica, hai capito? Finché non se ne sono andati, mia madre, poi è arrivata mia madre, è arrivata mia nipote con il bambino piccolino, ho voluto tenere il cane, perché il cane per i bambini piccoli è una cosa allucinante. Non vuole che in pratica mia nipote lo tocchi, non lo si avvicina, si mette a bagliare, si mette a piangere, ho voluto tenerlo con guinzaglio in mano, perché lo sa il cane, ai bambini vuole molto bene, non vuole dire, cioè, in pratica non è calavanti come si chiama, alla faccia, quindi non voglio. Alle 7 quando se ne sono andati, ho preso, sono entrati fatti a barattino e mi sono rilassato, stavo facendo di testa con quei due, andavo a destra a sinistra, si pigliavano hanno preso un tablet, ma ormai gli aveva il suo, il mio, e la biada martellate, con il cacciavite, era tutto l'altro cribato, dice Antonio scendo giù e mi ha fatto zio, scendo giù mi piglio l'altro tablet, tanto è rotto, anche quello, il vetro, piglio e mi rivetto a spaccarlo, hai capito? Tanto già ci pagare io. Ok. Bravo. Vabbè, lo so, i bambini sono così. Cosa ci vuoi fare? Devi fare un corso accelerato di bambinaio, così almeno come tenere a mano. Io vi saluto, devo scendere per la cena, che mi hanno chiamato qua. Per cui vi ringrazio e spero di risentirvi domani sera magari, no? Poi di mattina può darsi anche, chi lo sa. Tutto è possibile nella vita, ci sentiamo. Ciao Antonello, grazie per la chiacchierata. Ciao Marco, grazie anche a te, chiaramente. Ciao Claudio, se sei ancora all'ascolto, e tutti quanti ce ne sono. Saluto tutti e dopodiché chiudo dopo aver ascoltato il vostro finalino. Vai Marco. Ciao. Ok, ciao Giulio, buona cena. Poi vabbè, faremo quando capiterà. Parliamo di un altro aspetto del cloud, ricordati questa parola cloud, ne riparleremo, dai, così, perché proprio ce la ci fregano, no, manco ce la accorgiamo, ci fregano come niente, vabbè, buona cena, dai, ci sentiamo, vai Antone. Sì, sì, ciao Giulio, ci sentiamo, buona cena, buon tutto, alle prossime, stai bene. Marco, a te piaceva la signorina che c'è al bar? Eh? La signorina attuale? Beh, forse quella in foto che mi avevi mandato era più... non lo so. Quella c'era andata perché pigliava solo 600 euro, capito, al mese, quindi c'era andata per quello. Questa che c'è adesso si chiama Speranza, poi c'è un'altra piccolina, è un pochettino più bassa. almeno quell'altra non era fidanzata, quella bionda, quella sì che già aveva buona, già c'è una fotografia, già te l'ho fatta vedere, quindi, a voglia. Non l'ho più vista, l'ho detta, magari, mi ha detto, diciamo, quando andava via da qui, si girava tutta la Sardegna, mi ha detto. E poi vedeva un po' lì, se riusciva a trovare qualche lavoro, andavo a lavorare. Cioè, è giovane, sì, almeno si diverte un po'. Eh beh, quindi Antone, eravamo riusciti ad appurare la marca del tuo smartphone, perché io volevo vedere le caratteristiche, però da quelle informazioni di sistema non ho capito manco il modello, non si capisce, boh. Quello che ho io è LG Android, capito? Il K4, è modello K4, del 2017. Vabbè, no, perché quando hai detto del 1000 già mi stavo preoccupando, ho detto cos'è sotto il 2000? No, non esistevano poi ancora smartphone così. Ho detto come 1000, no? 2017 io. Poi vabbè, Android, quasi tutti Android, a parte qualche Apple, per i ricchi o per i fighetti. Sì, per quello che l'ho pagato, guarda, 80 euro l'ho pagato, sia uno sia l'altro, ne ho due. Quello che c'è il vetro sasciato, che in questi giorni lo porto dai cinesi, me lo faccio sistemare. E poi l'altro è un nuovo, quello ho comprato un nuovo, uno è il K4 nero e l'altro è grigio. Però sono uguali, precisi identici, poi con lo stesso prezzo, ancora. Che ha voluto che c'è lì, mamma mia. Eia, mamma mia che freddo. Ho dovuto aprire la finestra per far passare il cavo dove era prima. Speriamo non si sia rovinato, perché l'ha stretto un po' chiudendo la finestra, mamma. Se l'aspetto parecchio, l'ha rovinato, sì. Spero, controlla che basta che provi. In PMR se esce vuol dire che non c'è niente. Eia, no, stretto. Non ha lesioni il cavo. Però sai, lasciargli almeno quello spiraglio di pochi millimetri e farlo passare. Perché l'altra volta è successa una cosa strana. Abbiamo attaccato, vabbè te la spiegherò in separata sede. Adesso sto facendo scansione, provo a parlare in PMR, vediamo. Lo capisco subito se è interrotto. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, provo. Parla solo lì che te lo passo qua. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, tutto a posto, dai. Tutto a posto. Hai messo un nuovo IASU in funzione. Solo che mi segna 44, 4, 6, 8, 0, 81, 20. Non mi ricordo più com'è la classe del... pari e basta, cazzo, buco. Bisogna domani mattina lo controllo, adesso non guardo niente. Domani lo controllo e vedo come sistemarlo. Invece di tutte le altre frequenze sono a posto, 27 mi segna giusto. Solo in PMR me lo fa. Se non ti ricordi il passo di frequenza, e tu vai in manna laterale e metti 446.081.25, quindi 446.081 e poi 25, e passi in FM e sei lì, capito? Quando non volevo cambiare lo step, bene o male te lo mette, te lo fa. E se andiamo per mano tra l'altro, però mi fa sempre il corso, boh. Domani lo guardo meglio, là. Strano. Andare, domani già lo so, già lo... perché non mi ricordo più come era la prassi, mi lo peraltro adesso. Al buio pure, non voglio toccare nulla, se no mi casino. Domani provo in mano laterale e vedo di sistemare le cose. Andare bene. meglio. Adesso chiudo la finestra. Che ore saranno? Qua non ho orologi più, oh, spariti tutti. Se lo dico subito, lo dico. Ok, quasi quasi vado là, devo fare una cosetta al computer e poi mi guardo la TV alle 9, vediamo se c'è qualcosa, se no pazienza. Devo cucinare, capito? Io faccio una panna di tramezzini e stavolta c'è nato, quello che faccio le sardine, c'è nato il benedetto Kung Fu, dove è il Kung Fu, per sicurezza, che metto interrato, sono già freddo, se no già lo metto in mezzo all'acqua calda. Ehi, ok. Mi... Sì, già sta ricevendo. Sull'1 qualcuno ha pigiato sul canale 1 PMR. Ogni tanto senti servizi, servizietti. L'altra volta dal cinese, non mi ricordo se era per Cina o Eurasia, stavano parlando dal magazzino al commesso cinese con i Bao Bao. Mi. Ah, quindi gli stanno facendo arrivare i Bao Bao. Magari vengono pure. Può darsi che siano di loro uso, io non ne ho visto in vendita, sono di loro uso, magari chissà su che frequenze vanno, perché loro non è che, cioè le frequenze che ci hanno memorizzate di fabbrica, tipo 462, pigiano e parlano, capito? E poi come gli ho buttato l'occhio sul portatile là un po' come semi nascosto, mi l'ha tolto dalla vista, devo chiedere, ce l'hai la concessione, fammi vedere la concessione. 462 mi pare che era, se non ricordo male. Io gli ho chiamato i miei due 888, erano rampati, erano abbassi, te l'ho chiesto. Non sapevo neanche usarlo, cioè la soldi così, guastassi, ho preferito andare a lui, me lo li usa. Lui in casa, gli ho detto guarda, lasci una tua moglie, l'altro ha detto tutto perché ha preso al lavoro. Quando stai entrando, a chiavi e ti ha risposto. Arrivate da casa stesso, così fai prima, gli ho detto. Ti prendi il rapportore e sei più tranquillo. Meglia, me, come ti ho detto l'altro giorno, con la custodia ho girato la testa prima di venire da te e niente. Poi, vabbè, sono tornato a casa. Il giorno dopo stavo cercando uno di quegli spinotini adattatori da BNC a SMA reverse. Ho girato tutto, non l'ho trovato. Ce l'avevo quando sono venuto lì al bar e poi sicuramente a casa, come ho disfatto le buste e c'avevo un po' di roba appresso, magari è caduto, ho finito sto letto, non lo so, sparito. E ricordo ne avevo uno solo, uno. Invece del normale BNC SMA maschio ne ho tre addirittura, invece di quello nemmeno uno, porca miseria, ma lo devo, dovrò andare o da Fusaro perché no, adesso non posso ordinare nulla da internet, con questa storia della carta di credito, del cambio banca, tutto un pasticcio hanno fatto, quando si stabilizzerà la situazione magari me lo compro anche dalla Cina, dal fattore. Se lo trovo me ne prendo due direttamente, perché tutta roba soggetta a perdersi, hai capito? E vabbè. Io lo comprare invece così, stamattina con il ministino per Renzo, perché con il rettangolare non si acciappa, quindi SKD, non SKD sono in mercato la marca, rettangolari verdi sono fini, non si trovano, quindi l'unica cosa che io mi metto, provo a misurare, a metterci 9 ministri all'interno del pacco, se ci stanno lo prendo ancora, glielo faccio uno e me faccio arrivare da mia nipote e me lo faccio arrivare a casa, che tanto mi ha dato io, costa un sacco di dinero. chiamato quello Mister Lavivo, invece lì su internet cosa vuoi fare? Automatie costavano 8 euro, ma una cosa del genere, 2000 mAh. Accidenti a me. Ah, ho fatto cosa ieri, quella fatta di 9.000. Ho fatto Gian Piero e io giù, io su con l'altro. Sapiglia bene. Un'unica cosa che sono fatto da cosa, dallo spin, il segnale mi ha fatto che mi ha sentito dall'Ener, figurati, 20 più su dello spin. Guarda che con 10 milliwatt, caspita, quelli sono 10 milliwatt, non so se siano ERP addirittura. Io mi ricordo che da un palazzo all'altro, no, distanza fai 50 metri, bastava che andassi proprio in linea ottica, sono andato dietro il gabbiotto del palazzo, no, il gabbiotto quello al centro, e già ho sentito un po' di fruscio di fondo, capito? Lì la portata è estremamente limitata, sia per la frequenza alta, sia per proprio per i milliwatt che ti danno. Quindi sono proprio a vista, capito? Tipo se devi anche per mettere antenne a posto sul tetto da giù, ti ricordi? Adesso ci vede, adesso non ci vede, fermo, ti ricordi una volta a Bozzi, da giù a su? Ehi, già me lo ricordo, già, oh, già per quello già uso PMR e pompa di più, e diciamo quelli a orologio, i PMR, cazzo, quelli la creazione del primo piano dove abita Gian Piero. Il fatto mi ha accompagnato, in pratica ho preso la 8 fino all'incrocio con Piazza Castello, dopodiché non l'ho più sentito. Eia. Mi ricordo invece, caspita, ai tempi di chi li vendeva? Cosa li vendeva? Adriano dell'84-85, quello di Viale Umberto, i famosi Maxon, portatili 49 MHz. 49 MHz, sì. Con antennino telescopico, no? E quello che avevo io era bello, c'aveva 6 canali, o 3 o 6 canali, avevo lo squelch, avevo anche lo squelch, dichiarati 900 metri in portata ottica, avevo provato con nonno, portata ottica, cioè io vedevo lui, lui vedeva me, non più di 400 metri, a 400 metri perdeva il segnale, capito? Ce n'erano vari modelli, c'era quello sempre portatile con un canale, io naturalmente avevo voluto quello con più canali e lo squelch pure regolabile, no? Ne c'avevano una coppia, ne avevamo, poi ho avuto anche il Maxon, quello a cuffietta, né? Con l'antennino filiforme, quello a cuffia, no? Che ci riaggancia la cintura all'unità centrale, no? I comandi, e poi c'è un cavetto che va alle cuffie e c'è il Vox, e con quello ci parlavo con l'allora mia ragazza, quella che abitava di fronte. Poi certo la portata era veramente limitata, a seconda della posizione che avevo in camera non mi sentiva me, ed eravamo proprio il palazzo uno di fronte all'altro. Quindi non c'era pericolo che ci sentissero in distanza, anche che noi parlavamo anche di schifezze nostre, mi capito, di cose erotiche. E io guardi, no, già mi va tranquillo, i buffer che c'ho su questi qui vanno bene, se lo fai qualche antenna, ma sarà molto difficile, risalgo su più sopra il tetto a rompermi con gli allora che proprio non c'è qualche amico che ha bisogno della mano, se no a salire a ammazzarmi per della centro storico, specialmente in quelle terre rosciate, invece quando noi metti qui ci scendi in casa in cantina, ci scendi, perché la maggior parte di quei tetti sono tutti fatti in canna solo. Antonè, ho notato che però non c'è il limpido di modulazione, ma hai qualche watt in più? Watt in più? Ecco qua, adesso è diminuito, guarda un po'. Ehi, non c'è paragone. Prima era come saturo compresso, non era limpida, poi sentiva sta musica che... No, la TV cos'è, la radio di fondo? Adesso è molto chiara, molto molto più chiara. E cosa stai usando? Sto usando le cose, mi sto usando L'87 lì. C'erano quasi 20 watt questo apparecchio in uscita. E il coso, il microfono si aperta, sempre il solito. Ma quello scatto che mi hai fatto sentire, cosa era? Altro un coso mi fa. Così è una letta. E così sono a metà watt. Perché ho sentito uno scatto, sembrava netto. Eh sì, ha migliorato molto. Migliorato molto potenza bassa. E una volta avevo messo addirittura con riduttore di potenza 100 milliwatt e mi sentivate tutti in città, no? 100 milliwatt qui a terra, no? Qui, quindi dalla 50 metri di cavo, figurati quanti pochi ne escono, eppure parlavamo in tutta Sassari. Già lo so, con quei pochi milliwatt parlato con tutta Sassari, sì. Figurati. Ma guarda che con quell'apparato della... cos'è quell'Inter che mi sembra con... quello che mi hai dato, quello con l'attaccare che ci ho messo durante la l'acetino, quello fa molto molto di più di quell'altro che mi avevi dato, di quello delle 40 canali con l'antenna piccolina, di una di tutto. Questa me la pompa bene, esce benissimo, mi ascolto con quell'altro proprio, ma se andavo in terrazzo non mi sentivo neanche, giù mai. Beh, è giusto Antonè, è quella... L'antenna dei vecchi portatili era un ottavo d'onda effettivo, non caricato. Un E20, quant'era? Un E20, un E30 di antenna contro quelle antenne che fanno adesso, 15 cm super caricate. Ma quello è un carico fittizio, l'antenna dei portatili moderni. Infatti si era lamentata, altri CB si erano lamentati di quei portatili che non sparavano nulla, non irradiavano nulla, capito? Vabbè, purtroppo li fanno tutti così, con queste microantenne di gomma, sembrano dei VHF adesso. E la resa però è più che pessima. Li puoi usare in vicinanza, vabbè, quello sì. Però i portatili dall'epoca, minchia. Il famoso Excalibur 80 col telaio in alluminio, mamma mia che bello che era, è completo soprattutto, quello lo sto ancora piangendo tutt'oggi. E si bussano anche quei barattini vecchi, portatevi così, guarda me, quello che sono, non l'ho più visto, però mi hai che lo cerco, se lo trovo me lo prendo. Quei 40 canali tutti in ferro era, c'era 40 canali normali, 40 sotto, spalleggiabile, con l'antenna telescopica, con lo Smith piccolino, e l'attacco del microfono c'aveva. Il maio mi sembra che si chiamava, se riesco a trovarlo quello me lo prendo. Già molte 10 batterie, ci vuole almeno quelle da 2000 mAh, però quello turbava, era una cosa allucinante, ci potevi mettere il microfono amplificato, il microfono normale, comunque quello piaceva a te. Eia. Poi questi anche portatili di adesso, Midland, i Intec hanno una modulazione scarsissima, escono proprio piano piano di radio e non riusciamo a aumentarla, anche se metti in trimmer la manetta non aumenta quasi nulla. Non per niente, aspita, che tutti i portatili vecchi uscivano forti, io mi ricordo quello, l'Alan 33, no, quello grigio di cui ti ho dato il finale, no, Great si chiama, ma è l'Alan 33, uguale, uscivano benino, cioè non benino, bene di radio, capibilissimi, ho avuto l'Inno Hit, sei canali 5 watt, lo stesso bello, ho avuto quello lì, lo stesso, il mattone, era sì un poco pure di radio, ma almeno il volume della radio era abbastanza buono. Il Maxcom, poi non ne parliamo, il Maxcom c'ha una modulazione bella, brillante, acuta, squillante, dai, diciamo, no, acuta. Ma che Maxcom ce l'ha cosa? Ce l'ha Salveri uno? In cosa avevo sentito la tornata a volta? In civiltà? Quello va di buntessa, di parito, Salveri ce l'ha quell'apparecchio lì, il Maxcom 7. Tutto completo, la valigetta. Sì, sì, sì. Anche la Intec aveva il kit con la valigetta, mi ricordo. L'aveva copiato dai Maxcom, Maxon americani, Maxcom. Ma tu il Maxcom 7 l'avevi mai provato in portatile con l'antenino suo? È proprio in portatile. Sì, l'ho provato, quando c'era la macchina a Bacco, la Ritmo, sono andato alla cosa, a Mores in pratica, fino a Montesanto mi sentivo la sassa, dopodiché è sparito il segnale. Perché si è notato, l'antenna del Maxcom 7 è corta, quanto sarà? Meno di 80 cm sarà, se non di meno, cioè non è un ottavo d'onda, sicuramente all'interno del dove la viti, sicuramente c'è una bobina per farla arrivare almeno un ottavo d'onda, capito? Non può essere più corta. D'altronde io aperto non l'ho mai visto il Maxcom, ma sicuramente ci resta una bobina che poi sommata a quella lunghezza di stilo arriva a un ottavo d'onda almeno, e se no non renderebbe nulla. Per esempio io il Maxcom 7 l'avrei anche venduto, quello è un signor portatile a tutt'oggi, però mamma non vuole venderlo, cioè preferisce lasciarlo marcire così in uno sgabuzzino piuttosto che venderlo. Che senso ha? Io lo metto sempre a te una cosa del genere, a questo di pensare di entrare nel barcchio, ormai ti metti quella lì di apparecchio in macchina e parli con quella, è piccolina e non ti rompere male nemmeno. Capito? L'unico problema è che c'hai questo, il pulsante rosso ce l'hai, hai capito? Siete il fatto per i vicini urbani, tipo si possono mettere la multa, capito? Si vedono questa cosa in mano, come cavolo fa, è un casino. Ehi, vabbè, anche il microfono normale del baracchino non si può usare, nemmeno il cellulare, cioè devi tenere le mani sul volante, al limite usare il cambio, ma non ti devi distrarre con microfoni, cellulare, niente. Comunque l'antenna del Maxcom avvitata sulla sua base magnetica usata in veicolare non rende nemmeno lontanamente come le antenne comunque veicolari, quella che io ho da 1,60 m, non rende. E mi ricordo che arrivato a metà strada tra Sassari e Polo Torres, a Sassari già non mi sentivano. C'è un limite. Adesso non so io, perché poi no, l'antenino è corto, stesso discorso, però nella base magnetica l'ho vista come sotto, c'è una spirale di rame in modo da raggiungere in quel caso credo il quarto d'onda, almeno spero sia un quarto d'onda, almeno in configurazione veicolare, ma può darsi che sia pure ottavo d'onda. C'è quello che hai detto tu, c'è questa bobina fatta nella pezza di rame. E poi se ti ricordi bene c'è anche la bobina dove c'è un buco fervente, quando sono per fare la tarantola per stazionare in pratica, capito? Per fare regionale. Ah, no, io ho visto solo quella pista di rame, no, la spirale, no, come hai detto tu. Quella l'avevo vista. Però non so se sia un quarto, un ottavo d'onda, vabbè. Certo, quella è una cosa, come dice il kit d'emergenza, proprio se hai bisogno, solo che all'epoca poteva essere utile, ormai con i cellulari, il baracchino non ha senso di esistere, se non proprio a livello amatoriale. Tu c'hai un cellulare anche senza scheda, fai il 112 e chiami, anche senza la SIM, sono fatti apposta. Poi da lì puoi chiedere di inviare un'ambulanza, i pompieri, tutto puoi, capito? Va bene. Non so se siano così anche gli smartphone, cioè non so se lo smartphone privo di scheda SIM ti faccia chiamare 112. Invece i cellulari a tasti classici puoi chiamare 112 senza la SIM. Te lo ricordi, sì? Certo che me lo ricordo. Io c'ho il coso che funziona così. Quello della 3, il primo videotelefonino. C'è scheda, solitamente ti dà il 112, 113, quello che vuoi. Ti dice chiamata d'emergenza e puoi farla tranquillamente senza carta. Sì, è vero. Come lo accendi, ti appare la scritta chiamata di emergenza. Cioè, puoi fare solo il 112, che io sappia. Perché a quanto pare il 112 è valido in tutta Europa. Nel nostro caso, non so se in Italia abbiano unificato i servizi. Perché prima devi fare 112 per i carabinieri, 113 per la polizia, 100... cos'erano i vigili del fuoco? 115 può essere? 115 i vigili del fuoco, sì. Però avevo sentito che con la storia di questa Europa, Unione Europea, forse avevano fatto un numero unico che era il 112, poi da lì ti possono smistare o la polizia o i vigili del fuoco, ambulanze, però non lo so se la cosa sia effettiva, non lo so, non mi ricordo. Io per essere sicuro faccio il 112, poi chiedi se serve, qualsiasi cosa serve, lo dici a loro, casomai già lo sai, no? E quindi cioè non so se siano ancora validi il numero 113, 115 e eccetera eccetera. Sì, sono ancora validi, perlomeno. Certo non vado a fare la prova, no? Vado a telefonare, no scusi, era una prova. Invece vabbè, vigili urbani è un'altra cosa, loro hanno un numero loro per le emergenze, no, mi pare fosse 274100, è un numero normale di telefono, tipo qualsiasi cosa servono. E invece 274400 la GBC. Per esempio, mentre noi abbiamo il 112 a livello europeo, negli Stati Uniti è il 911, l'avrei sentito molto nei film, nei telefilm, chiama il 911 e poi da lì ti possono dare o la polizia o le ambulanze o i vigili del fuoco addirittura, se non sbaglio, un numero unico americano, anzi statunitense, ecco, perché l'America, vabbè, può essere anche America del Sud, no? Che comprende tutti quegli stati brutti. Il numero uno usano in America in basso, un numero unico, poi ti passano per i pompieri, quello che è, e li puoi chiamare. Che risponde in pratica alla polizia, dopo che gli chiedono che è, cosa ti serve? Allora dici, mi serve l'ambulanza, eccetera, allora ti chiamano direttamente l'ambulanza loro stessi, capito? O i pompieri, mi si viene. Meglia. Poi sicuramente anche in Russia, in Cina avranno un numero unico di emergenza, almeno credo, non so se abbiamo unificato anche loro. naturalmente in tutti i paesi così, Giappone, Australia, ma Australia non lo so se sia un 911 oppure se hanno un altro numero unico. Bisogna fare una ricerca su internet, così come avevo fatto per la banda CB nei vari paesi mondiali. Per esempio in Giappone, ti ricordi com'era in Giappone? Avevano solo 10 canali, tutti sfasati rispetto ai nostri, cioè non avevi il 5 finale, non avevi 5 kHz finali ed erano, mi pare, non so se 500 mW o un watt di potenza. Gli apparati potevano essere esclusivamente portatili, erano tipo, non so se ti avevo mandato le foto, sembravano delle autoradio, no? E c'avevano questo antennino, penso un quarto d'onda, non so, a filo. Ed erano tutti di marca Panasonic, Sony, poi un'altra marca, cos'era? Aiva, capito? E c'erano delle forme proprio diverse da tutti gli altri baracchini che conosciamo. Qui abbiamo Motorola, usano sempre questo, va? No, no, Motorola no, io sto parlando baracchini, CB, banda 27. Io l'ho viste le marche, erano tipo Aiva, te l'ho detto, Panasonic, Sony, poi cos'altro c'era? E quelle marche lì erano, non erano molte. E loro facevano di ex, tipo con questo mezzo watt, un watt, non mi ricordo, i DX si facevano, capito, in altre aree del Giappone, perché più di quello non puoi fare, con un antennino da portatile cosa puoi fare? Vabbè, come dire, è così la faccio. Non so se come sono, vabbè, di quello per me, che chiedo a Giancarlo, se quell'amico su c'ha quella palica sui 43 e me lo posso dare. Quelli in tempo utile però bisognava chiedere. Non fanno più le antenne, lo sai, prima vedevano le antenne per base, per balcone, veicolari pure, tarate, perché se metti un'antenna non tarata bruci tutto, è chiaro. Se l'ho provata io, ho provato la mappa tu e risuola come un treno, ho provato con Rosmetron, uno stazionale su 43 mega, sto dicendo, è una cosa allucinante, e l'ho anche modificato, mi dava 999 canali, tondi, sotto, medi e sopra. Aspetta, con quale rosmetro? Con il rosmetro, quello che ho io, il modello 500. Ma tu non hai il BV, ma il TM, come si chiama, ZG? C'è anche il TM1000, poi c'è il modello 500, poi l'altro, quello modello militare, lavorato a California. Quello rosmetro, capito? Che arrivava fino a 200 MHz, tutto lì. Io mi sono tutto il modello 500 che lo usavo anche per i trasmettitori FM, io quello, facevo la taratura del battito con quello rosmetro lì, anche perché il mio l'avevo prestato a Pier Andrea e capito, ha fatto la fine di cosa, non l'ha più visto, lei ha dotato me lo rosmetro e evidentemente è rimasto al vero in mano a qualche amico suo. Non si presta la roba, no? Sì, cioè, volevo farti capire che per misurare le stazionali tipo su 43 devi avere un rosmetro che copre 43. È inutile dirti, no? Che l'857 c'è un rosmetro incorporato e sembra abbastanza affidabile. Cioè, tu vai lì, attivi, metti una potenza minima, attivi il rosmetro e ti segna le stazionarie, capito? E ho notato che con le tricore che io avevo e poi è sparito l'MFJ da 1 a 60 MHz, ho notato che è misurata una frequenza X, una qualsiasi frequenza, poteva essere, se non voglio dirlo, potevano essere i 45 metri, poteva essere la 27, no? Misurato con l'MFJ esterno e con quello interno, segnavano la stessa cosa. Cioè o usavo solo quell'esterno oppure toglievo quell'esterno, quindi antenna diretta all'apparecchio, misuravo e dava le stesse misurazioni, quindi per quello ti dico che è abbastanza affidabile. Sì, hai già capito. Succede che io ho provato, subito per prima l'ho modificato, ho visto questi due diodi tagliati e gli avevo aumentato anche il watt addirittura. Io ho agganciato i diodi e cazzo, come ho visto questo il display 999, ho detto cazzo che bello, ho cominciato a girare, girare, e vedere buco dei canali, solo che c'era voluto un frequenzimetro, capito, per sapere dove diavolo ci uscivi, hai capito? Quindi figurati tu, 999 canali mi dava proprio tutti i turni, altro che 22. Ma quale apparato? Non ho sentito bene. C'è questa musica di fondo forte. Il televisore di Simona è basso a me, figurati. Io sto parlando di quelli del 43, quelli che usano i tassisti. Sì, il modello Intec aveva una modifica da fare e diventavano, certo non 999, ma tipo 200, 400 canali forse, una cosa del genere. Cioè c'era un limite, poi magari il display segna ma non va oltre, capito? Vabbè che lì sono cose più, no, le frequenze assegnate, i canali sono, quant'erano? 24, non me lo ricordo più, lo sai. 24 era, io quando ho lanciato i video di prima c'ho ancora la fotografia nell'occhio, come avevo fatto la modifica. Appena li ho lanciato quei due video, li ho visto staccati, li ho saldati, no, 999 segnato, tu di fratello. E infatti gli avevo sentito, ho detto dietro, a parola ho detto di questo coso che glielo ho detto modificato, ho detto, e ci sono 999 canali, ho detto, non so se sono già, penso già in basso, non gli ho detto, dato che 24. E ho detto, non l'ho mai usato, ma c'era in officina lampada dove quell'apparecchio. Esatto, glielo chiedo a Giancarlo se non se ne fa niente, quello ve lo faccio dare. E così ci divertiamo, capito? Te lo do a te, e allora ci divertiamo, parliamo in quella frequenza, tanto non ce ne sono più tassisti, quindi a un certo punto lo puoi anche utilizzare. Non legalmente, certo. Però in effetti non è un'altra frequenza morta. Guarda, quella frequenza ha fatto una brutta fine, così come gli, come si chiama? Gli SRD 800 e Fuchsia Megahertz. Una banda istituita, poi, vabbè, a parte che erano 5 milliwatt su 800 MHz, cioè, facevi 20 metri in città, sai, con gli ostacoli. Invece vedi, 43 erano, mi pare, 4 watt, ovviamente il baracchino Intec, il veicolare Intec potevi mettere 20 anziché 4, si poteva fare la modifica anche di watt, però non trovi più le antenne, te le devi autocostruire, capito? Tipo uno stilo di alluminio lungo tot, i radiali per fare giustamente la... vuole anche radiale, no? Almeno uno, magari dalla stessa lunghezza, come una boomerang, no? Guarda che c'è poca differenza, secondo me erano 50 cm in meno, dalla mantova normale alla mantova quella per quelle frequenze lì. C'era pochi centimetri di differenza. Se tu noti quello che c'ha le bombole, c'ha la Grand Play, che ha catalocchio, e lei è un pochino più corta di quella della 27, figurati, leggermente più corta, saranno 50 centimetri, penso una cosa del genere, non di più. Aspetta che vado in bagno un attimo. Vai, vai in bagno, vai, io appena ritorno e chiudo, dai. Aspetta che mi fa solo e lo metti più addosso. Mettiti il pannolino. Ok, sono rientrato, no. Già fatto. Io ci sto 2 minuti a fare la pipì. Tienimi, il getto continuo. Che la bevi Coca-Cola, tu per quello. Se bevi la birra già lo sai che c'hai mezz'ora. Se invece bevi acqua, a meno che non sia acqua tipo quel setta che ti fa pisciare che cosa amara. Cosa stavo dicendo? Sì, una banda l'avevano fatta per... ti ricordi che sotto l'uno c'erano i servizi, gli stessi servizi, no? Erano alcuni canali per, non so, adesso non mi ricordo le definizioni, poi li hanno spostati o affiancati ai 43 MHz, solo che lì non... ma lo sai perché? Molte associazioni hanno le applicazioni tipo Civitalk o Zello, anzi più Zello perché ha i canali privati. E ho visto in tutto il mondo, sia in Italia sia fuori, associazioni tipo Guardie Giurate che usavano tanto lo smartphone, adesso ce l'hanno tutti, ogni singola persona. Quindi non devi chiedere concessioni di radio, di a stare a piazzare antenne, a tararle, anche lì c'è l'applicazione, premi il tasto e sto parlando di Zello, c'hanno il canale loro privato dove non può entrare nessuno perché c'è la password, capito? E qua vai lì, controlla quello, tutto ricevuto, tutto bene, capito? Radio non è... ma che ormai che si strana la radio per quei servizi, sì, qualche cosa è giurata ancora c'è le radio, ma non so quanto dureranno. Ma secondo me, guarda, fra poco anche se si scopriranno questa cosa qua che stiamo usando noi, li useranno, vedrai, l'applicazione della Midland e fanno prima. Una volta posso usare e parlano tra loro, mi vedrai, si parlano un canale e parlano tra loro. Ormai siamo tutti. Io ho visto l'applicazione Midland, c'è poca gente, specialmente a Napoli siciliano c'è una cosa allucinante. Guarda, sai che chi può avere interesse, vabbè, a parte i radioamatori, i CB che lo fanno per passione, giusto le forze dell'ordine hanno necessità di radio vere, no, via radio, non roba legata a internet, anche se mi detto tra noi, con tutta questa roba tetra, le loro radio assomigliano più ai cellulari ormai, le ripetizioni assomigliano più a roba cellulare che non roba radio pura. E vabbè, il progresso, tra virgolette. E allora, progresso, progresso. Va bene Marco, dai, io me ne vado adesso a cenare, me parlo a cena per me per Simona. Se domani mattina entri, se ti svegli presto, andiamoci a vedere l'acqua, il tanto è aperto qua sotto, il bar dove siamo andati l'altro giorno, aperto la domenica, la mattina, fino alla 1:30, 2. So che, sai, la domenica mattina è drammatica, minimo mi alzerò alle 5 di pomeriggio. sto dormendo molto male di notte, Antonè. Sto dormendo dalle tardi, dalle 5 passate prendo sonno. Non lo so se c'entrano tutti questi ormoni scombinati per via dell'operazione, ma sta peggiorando la situazione. vabbè, si fa quel che si può. Va bene Antonio, dai, buonanotte, buon tutto, cena se devi cenare, poi già penso che domani entrerò in radio. Tanto qua se andiamo da Auchan, se andiamo, andiamo nel pomeriggio con mamma, tipo alle 2:30, 3, no? Poi tutta la sera ce l'ho libera, ok? Ciao, ci sentiamo, ciao Antonio, ciao ciao. E io che non c'è problema, questa, ti devo invitare io questa volta la birra, l'altra volta hai invitato tu, quindi adesso tocca a me. Se domani ti svegli presto, anche alla 1 mi per dire, dove andare allo show, passi qua, ci vediamo una cosa e poi quella è quella metà lo sciamo, non è un problema. Infatti già sono alla al coso, a Cibitalk, che mi chiami, già lo tengo acceso. Ok, ciao, buonanotte, a domani. Saluto mia mamma. Ehi Antonio, naturalmente per domani già lo sai che sarà difficile, no? Domenica mattina mi viene molto a greppi, più degli altri giorni. Piuttosto Antonello non l'hai più sentito, no, Barracuda? No, non l'ho più sentito. Perché una mattina anche al distributore volevamo organizzare, ci prendiamo un caffè, una birra, quello che vogliamo, così, tanto per vederci, per chiacchierare. Vabbè, dai, ci sarà occasione. Ciao Antonio, ciao, chiudo. Ci sentiamo domani. Ciao, buonanotte.